Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Lo sviluppo tecnologico nel campo della medicina e della chirurgia è giunto oggi a un livello tale da consentire trapianti di organi anche estremamente complessi, come ad esempio l'occhio. L'Italia, tra l'altro, è all'avanguardia assoluta in Europa proprio per il trapianto della cornea artificiale, la cosiddetta cheratoprotesi di Boston, effettuata per la prima volta nel 2010 su una bambina di 10 mesi nella clinica oculistica universitaria dell'ospedale San Paolo di Milano, come racconta il professor Paolo Nucci, capo dell'equipe che ha effettuato l'avveniristico intervento. Un trapianto un po' particolare. Mi piace dire che lo devo ad uno dei miei specializzandi che è stato negli Stati Uniti ed ha portato questa novità in Italia. Abbiamo avuto un po' di coraggio, abbiamo effettuato questo intervento che è durato un po', è durato circa 3 ore, con risultati molto buoni, perché poi quello che a noi interessa è che Delinda ci veda bene. Un intervento sicuramente gravoso, ma anche incredibilmente emozionante per i medici, pionieri di un'operazione mai tentata prima nel nostro continente. È incredibile come il trapianto di cornea possa annoverare una serie ragguardevole di primati. È infatti il primo trapianto umano della storia, realizzato il 7 dicembre 1905 in Austria dal dottor Eduard Zirm. L'oftalmologo austriaco trasferisce la cornea di un ragazzo di 11 anni, morto in un incidente, nell'occhio di un manovale accecato dalla calce viva. Qualche ora dopo l'operazione, il paziente recupera la vista, che mantiene per tutta la vita. Ma è nel nostro paese che la storia del trapianto delle cornee ha alle spalle una vicenda emozionante, ricca di avvenimenti tra i più disparati e carica di amore per il prossimo, una storia che ha per protagonisti uomini eccezionali. Per raccontarvela, Destini Incrociati intende portarvi con sé in un viaggio ai limiti delle possibilità umane, per farvi conoscere fin dove possono arrivare la caparbietà e il coraggio che riescono a vincere la fatica e le sofferenze più terribili. Nikolaevka, un viaggio che parte da Milano per raggiungere la varia Nyangskaya Oblast, una delle più impervie e gelide regioni della Russia, ricordata in tutto il mondo per la terribile battaglia di Nikolaevka, combattuta dagli alpini durante la Seconda Guerra Mondiale. Per iniziare il nostro racconto, dobbiamo recarci nella Clinica Columbus di Milano e tornare al 26 febbraio del 1956. Da qualche giorno è qui ricoverato un uomo che sa di non avere più molto tempo a disposizione perché è affetto da una grave forma di tumore. Sono già alcuni anni che lotta con coraggio contro la sua malattia, ma al tempo stesso continua incessantemente a lavorare con dedizione, come ha sempre fatto. E ora ha un'ultima volontà. Ecco perché fa una richiesta piuttosto strana al suo fedele amico, nonché esecutore testamentario, Don Giovanni Barbareschi. Giovanni, sei pronto a rischiare la prigione per me? Se te la senti, vai a cercare un oculista, ma se ti va male, sappi che andrai in galera. Quest'uomo morente ha intenzione di compiere un ultimo atto d'amore, donare le cornee perché due giovani ciechi possano ritornare a vedere. Oggi il suo sarebbe considerato un bellissimo gesto di altruismo, ma nel 1956 è un reato, punibile con la prigione. Non esiste ancora, infatti, una legge che regolamenti la donazione degli organi e tantomeno i trapianti. Per il momento si tratta di un'attività considerata illegale, oltre a sollevare riflessioni etiche e teologiche che creano una forte resistenza nell'opinione pubblica. Forse non lo dici. Ma all'uomo che giace nel suo letto d'ospedale, sotto la tenda a ossigeno, il volto emaciato, scavato dalla malattia, poco importa della legge. Lui ha conosciuto bene la sofferenza. Quei suoi occhi hanno visto molto da vicino il dolore. Si sono affacciati sul baratro dell'orrore della guerra e ora vogliono continuare a vivere in altre vite, in destini meno terribili. I suoi occhi vogliono ridare la speranza a chi aspetta di poter nuovamente vedere. Il nome di quest'uomo è Don Carlo Gnocchi. Don Carlo Gnocchi. In quei pochi istanti di incertezza in cui Don Giovanni Barbareschi esita domandandosi quali potrebbero essere le conseguenze di una donazione di organi a quei tempi illegale, Don Carlo Gnocchi si augura ardentemente che la risposta arrivi affermativa, permettendogli di compiere quell'estremo gesto. Sarebbe per lui il coronamento di tutta una vita, dedicata a coloro che soffrono, a coloro che più hanno bisogno, che si sono visti strappare il futuro a causa dell'insensata follia della guerra. Un gesto che rappresenta l'ennesima azione di un uomo che ha deciso molto tempo prima la strada da intraprendere. Il papà di Carlo, Enrico Gnocchi, fa il marmurin, come chiamano nella pianura lombarda quelli come lui che lavorano il marmo. Vive con la moglie Clementina Pasta, di professione sarta, a San Colombano all'Ambro, vicino a Lodi. Hanno 3 figli maschi, Mario, Andrea e il piccolo Carlo. Come quasi tutti i marmurin, Enrico ha la silicosi, una brutta malattia ai polmoni causata dall'inalazione delle polveri di marmo, che contengono grandi quantità di biossido di silicio. Siamo all'inizio del Novecento e non si conoscono ancora bene i danni che derivano dall'inalazione di queste sostanze, ma soprattutto non esistono attrezzature protettive specifiche. Ben diversa è la situazione oggi, come afferma Timothy Weyant, direttore medico della divisione salute sul lavoro della Pennsylvania State University. Oggi, se lavori in una miniera o in una cava, hai la possibilità di adottare una serie di equipaggiamenti specifici che ti proteggono, che fanno sì che le polveri di silicio vengano bloccate durante l'atto respiratorio e non penetrino nei polmoni. Lo so che con certe maschere è difficile respirare, si fa fatica, e purtroppo sono molti gli operai che non le indossano, ma non sanno quello che fanno. Purtroppo il silicio è un assassino silente, non dà sintomi, e poi d'un tratto è troppo tardi. Ai tempi di Enrico non c'è nulla di tutto questo, si lavora e basta. E se ci si ammala, si sopporta e basta. Enrico non sta bene, ma continua a lavorare per mantenere la sua famiglia fino a quando la concentrazione di silicio nei suoi polmoni diventa insopportabile. Quando muore, Carlo ha solo 3 anni, troppo piccolo per ricordarlo. La mamma si trasferisce a Milano per riprendere la sua attività di sarta, ma la vita le riserva ancora molto dolore. Nel giro di pochi anni Mario e Andrea muoiono entrambi di tubercolosi, altra terribile malattia molto diffusa in quegli anni, specialmente tra i bambini. Rimasta sola con Carlo, Clementina, che è una donna religiosissima, assiste alla nascita di una vocazione molto forte in suo figlio. Quello che pare più di tutto interessargli, verso il quale il giovane fin da adolescente sente un trasporto irrefrenabile, è l'educazione dei giovani, che sperimenta con successo negli oratori presso i quali fa volontariato per aiutare i ragazzini più piccoli di lui. Clementina lo annota nel suo diario. 2 miei figli li hai già presi, signore. Il terzo te lo offro io, perché tu lo benedica e lo conservi sempre al tuo servizio. Carlo sente dentro di sé questo trasporto e mentre guarda i bambini giocare nel cortile della sua chiesa pensa alla neve, così bianca, pura, pulita, come l'anima di quei fanciulli. E così deve restare sempre. La sua vocazione è segnata, chiara, semplice e perfetta. È all'infanzia, alla sua tutela e alla sua educazione che vuole dedicare la vita. Per questo decide di prendere gli ordini e diventa sacerdote nel 1925. Ha 23 anni ed è convinto di avere davanti a sé una vita da parroco, fatta del semplice e profondo rapporto che riesce da subito a instaurare con i suoi parrocchiani, in particolare coi bambini. Don Gnocchi è un educatore religioso senz'altro anomalo rispetto ai suoi tempi. Fonda il suo insegnamento su valori assoluti che vanno al di là delle regole del proprio credo. Bisogna costituire una crociata fra gli uomini di buona volontà, per la difesa della persona umana, a qualunque classe, idea e confessione religiosa appartenga. Si deve essere consapevoli che in un mondo di valori relativi e destinati a morire, la persona umana è l'unico valore assoluto e immortale. La sua fama di educatore di così larghe vedute giunge al cardinale arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster, il quale ha in serbo per il giovane Don Carlo Gnocchi qualcosa di più di una carriera di semplice parroco. Don Carlo Gnocchi è un giovane parroco, giovane ma molto determinato, convinto del valore della persona umana, sicuro che una corretta educazione fin dalla più giovane età possa far nascere e sviluppare una coscienza in ciascuno di noi, il rispetto fondamentale nei confronti del prossimo che rappresenta la fine di tutti i soprusi, di tutte le angherie e le sofferenze dell'umanità. Le sue teorie interessano molto i suoi superiori, in particolare il cardinale arcivescovo di Milano, Ildefonso Schuster, che lo chiama per affidargli un incarico importante. Carlo rimane molto sorpreso dalla convocazione e ora è un po' sulle spine mentre è in attesa nella segreteria del cardinale. Mille pensieri gli affollano la mente. Pensa alla madre che ha sofferto così tanto per la perdita del marito e di ben due figli. Per lei vorrebbe sempre fare il meglio per darle tutte quelle soddisfazioni che avrebbe ricevuto anche dai suoi due fratelli. Pensa ai suoi parrocchiani, a ogni singolo caso, ogni famiglia, ogni situazione diversa e complicata. Pensa con un po' di apprensione a quello che il cardinale potrebbe dirgli. Magari vuole assegnarlo a qualche parrocchia sperduta, o magari in un paese lontano. Certo, se c'è bisogno, lui andrà. Insomma, non sa che cosa aspettarsi. Carlo, voglio che tu diventi direttore spirituale del Gonzaga. È lì che si forma il futuro della nostra società. Il tuo contributo mi appare determinante. L'Istituto Gonzaga di Milano viene fondato dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione religiosa cattolica voluta da San Giovanni Battista della Salle, canonizzato nel 1900 e nominato dal Papa Pio XII protettore di tutti gli educatori. È una scuola cattolica paritaria nata agli inizi del Novecento, certamente uno degli istituti di educazione più antichi e prestigiosi. Per Don Carlo Gnocchi, la proposta del cardinale Schuster è del tutto inaspettata, ma anche molto gradita. La sua vita è a una svolta, di questo si rende conto subito. La mattina del suo insediamento all'Istituto Gonzaga di Milano, Don Carlo Gnocchi ha 34 anni. Quei giovani diventano da subito la sua vita, li segue con quel suo modo quasi duro, senza particolari tenerezze, ma con quel trasporto che i giovani avvertono. Carlo riesce a trasmettere qualcosa di fondamentale. A lui di loro importa veramente. Il suo lavoro viene molto apprezzato e il legame con i ragazzi diventa talmente profondo che la sua nomina viene estesa anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore. È qui, dal suo ufficio di assistente spirituale della Seconda Legione di Milano, che riceve la notizia che mai avrebbe voluto sentire. È il 10 giugno del 1940. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La guerra. Don Carlo Gnocchi sa molto bene cosa significhi questo. Sa che i suoi ragazzi, per i quali egli auspica un futuro fatto di pace, di studio, conoscenza, fatto di amore per il prossimo, sono invece destinati a partire molto presto per il fronte. Sa cosa significhi la guerra, conosce le brutture che i suoi ragazzi stanno per affrontare e decide in quel preciso istante che vuole essere con loro per poterli sostenere nell'ora più buia e tremenda della loro esistenza. Nonostante il fisico gracile e la salute precaria, Don Carlo si arruola volontario come cappellano del battaglione Valtagliamento degli Alpini, destinato al fronte greco-albanese. È la campagna dei Balcani, l'invasione della Grecia e della Jugoslavia da parte dei paesi dell'asse, voluta da Benito Mussolini per tentare di bilanciare i successi ottenuti dalla sua alleata, la Germania di Hitler. È uno scontro duro ma breve. L'intervento delle divisioni tedesche pone fine al conflitto in tempi strettissimi e la bandiera tedesca sventola sull'Acropoli. Si torna a casa, ma Don Gnocchi è un altro uomo, come racconta nelle sue memorie. La vita ordinaria del sacerdote può nascondere l'ambigua e difficile tentazione di segregarsi dalla massa, può creare lentamente diaframmi opachi e stabilire uno stato di splendido isolamento. Ma vivere sotto la stessa divisa, mangiare lo stesso pane, dormire gli uni accanto agli altri distesi per terra, dà il senso vivo di una comunione così intima e così eroica che ogni cosa, anche la più umile e ordinaria, si trasfigura nello spirito alla solennità di un rito e di un sacerdozio nuovo. Non può più starsene nella pace e nella serenità di una chiesa, nel tepore di una sacrestia, nella tranquillità di una parrocchia. Don Carlo deve seguire i suoi ragazzi in guerra. E così, quando nel 1942 la divisione alpina tridentina, di cui fanno parte molti suoi allievi, viene indirizzata a una nuova missione, il sacerdote non ha dubbi. Si arruola ancora una volta volontario come cappellano. ma questa volta la destinazione è decisamente più tragica della precedente. Il fronte russo. La Tridentina è una delle 5 brigate alpine dell'esercito italiano, specializzata nella guerra di montagna, e viene inquadrata nel corpo dell'armata italiana in Russia durante l'inverno 42-43. Un esercito di giovani di 20 anni, nati e cresciuti nel fascismo e nel nazismo, trascinati da Mussolini e Hitler in una delle imprese più dure e difficili di tutta la Seconda Guerra Mondiale, l'invasione dell'Unione Sovietica. Contro di loro, giovani della stessa età, chiamati da Stalin a combattere quella che viene definita la Grande Guerra Patriottica. Una vera follia, voluta principalmente dal Führer, come ricorda lo storico Thomas Rowe. Per Hitler, l'Unione Sovietica era un'ossessione per varie ragioni. Una di esse era certamente di natura psicologica. Per lui si trattava di una questione di razza, di una lotta tra ariani e slavi, di una battaglia contro gli ebrei. Ed effettivamente, nell'Europa orientale, la popolazione ebraica era piuttosto numerosa. Allo stesso tempo, era mosso anche da una ragione ideologica. Hitler vedeva se stesso ed il suo movimento come il mezzo per contrastare, sconfiggere e annientare il bolscevismo. Ma per Don Carlo Gnocchi le ragioni politiche non contano. La Russia è per lui il luogo dove fondersi con i suoi ragazzi. È evidente che sia stato chiamato per loro a condividerne le avventure, mettersi nei loro panni, viverne la sorte e non lasciar loro mancare la compagnia dell'amore di Dio. Posto sulle spalle come loro il pesante zaino, su piste coperte da mezzo metro di neve e con loro tra le fiamme, sotto il tiro delle catiusce dei carri armati russi, nelle pazzesche marce di giorno e di notte a 40 gradi sotto zero. I suoi alpini sono fatti bersaglio delle truppe di accerchiamento? Anche lui. Cadono per sfinitezza fisica e morale? Anche lui. E qui, nel volto spietato di questa terra nemica dell'uomo, in questa vita vissuta nell'imminenza della morte liberatrice, in questa campagna del dolore che Don Carlo incontra qualcuno. Un uomo che con un semplice atto di pietà, di amore, inaspettato nella tragedia di una acerrima inimicizia di uomini e cose, in quell'inferno bianco, trasforma tutto e ridà il giusto senso alle cose. Destini incrociati. Settecento chilometri di marcia nella steppa bianca e sconfinata, sulla neve farinosa, agghiacciati dal vento gelato, flagellati dalla tormenta, con 40 gradi sotto zero, senza viveri, bivaccando all'aperto, spesso marciando anche di notte. Gli autocarri si arrestavano per mancanza di carburante, le artiglierie rimanevano bloccate nella neve, i muli cadevano estenuati dal freddo e dalla fatica. Le armi si inceppavano per il gelo. La fila dei combattenti andava man mano assottigliandosi per i caduti, i feriti, i congelati. Sono ricordi vividi, scritti di getto, quasi senza punteggiatura, tutto d'un fiato, quelli di Don Carlo Gnocchi, sacerdote lombardo che decide volontariamente di seguire i suoi giovanissimi allievi dell'Istituto Gonzaga e dell'Università Cattolica di Milano, spediti sul tragico fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Originario di San Colombano all'Ambro, vicino a Lodi, Carlo Gnocchi si ritrova quindi cappellano militare al seguito della Brigata Alpina Tridentina, facente parte dell'armata italiana in Russia durante il secondo conflitto bellico, che vede Mussolini schierato al fianco di Hitler contro Stalin. La violenta offensiva dell'Armata Rossa alla meglio sulle forze dell'asse italo-tedesche e ungheresi, che ripiegano, stremate più che dai combattimenti, dal gelido inverno russo. Ma il nemico non molla e accerchia la colonna delle truppe in ritirata. Lo scontro è inevitabile e avviene il 26 gennaio del 1943 nel villaggio di Nikolaevka, un nome passato alla storia come una delle battaglie più drammatiche di tutta la Seconda Guerra Mondiale. La Tridentina è l'unica delle divisioni ancora in grado di combattere e riesce ad aprire un varco fra le linee russe grazie all'impiego dell'unico carro armato tedesco ancora utilizzabile e alla disperata lotta per sfuggire all'accerchiamento nemico. È la forza della disperazione che fa lottare gli uomini in quel frangente, che li fa andare avanti nonostante non abbiano nemmeno le armi per farlo, come racconta il reduce Ugo Zappa. Perché ci ha mandati, lui ha voluto fare la guerra per via dell'amico Hitler, però ci hanno dato in Russia con delle armi che non valevano niente. Infatti di notte in trincea, a turno, con l'embo del pastrano, dovevamo tenere calda l'acciaio della mitragliatrice, perché a 40 gradi sotto zero quello gelava. Quindi se i russi arrivavano ci prendevano con la fiamma, non con la, con le armi. Le perdite sono altissime fra gli italiani. Degli oltre 60.000 uomini del corpo d'armata alpino, 40.000 rimangono indietro, morti nella neve, dispersi, catturati. La colonna delle truppe in ritirata che sono riuscite a sfondare la tenaglia russa è una lunghissima sequela di soldati che sono ormai solo il fantasma di se stessi. Affamati, assiderati, feriti non solo nel corpo, ma anche nel morale. Tra di loro arranca un uomo, è un ufficiale medico. Fa quello che può. Sono mesi che si adopera in condizioni estreme per curare i feriti, portare un po' di sollievo ai morenti, raccogliere un ricordo, un ultimo saluto da riportare a casa. Viene da Milano. Il suo nome è inciso sulla piastrina di riconoscimento che porta sul petto. Rolando Prada. Rolando Prada. La Milano di inizio secolo è una meraviglia. È sede dell'Esposizione Universale del 1906, che occupa tutta l'area del Parco Sempione e quella che diviene poi la Fiera Campionaria, un evento che attira migliaia di visitatori. La Scala rende la città crocevia fondamentale per grandi compositori quali Donizetti, Rossini, Verdi, creando una tradizione che permane nel tempo e giunge fino ai giorni nostri. È città socialista di lotte operaie, centro intellettuale del futurismo italiano, prima sede del nascente movimento fascista che vede la luce proprio a Milano, in piazza San Sepolcro. I navigli sono ancora tutti a cielo aperto e sono navigabili. Vengono coperti solo negli anni 30, ma per il momento ci sono e danno alla città un volto molto diverso da quello attuale. La rete dei corsi d'acqua consente il trasporto fluviale tra il Ticino, l'Adda e il Po, e quindi l'Adriatico, e produce uno sviluppo importante della città nel commercio e nell'industria. Sulle rive dei navigli crescono botteghe artigiane, laboratori, lavatoi e tutto quanto connesso al trasporto su acqua. La città è un fermento unico. È in questa Milano attiva, laboriosa, ma anche col cuore in mano, che vive la famiglia Prada. Ed è qui che nasce Rolando. Il padre Martino e lo zio Mario sono pellettieri e nel 1913, quando Rolando ha appena 2 anni, aprono un elegante negozio di pelletterie e articoli di lusso in galleria. Con l'insegna Fratelli Prada, il negozio ottiene subito un grande successo, tanto da divenire nel 1919 fornitore ufficiale della Real Casa dei Savoia. I due fratelli sono però molto diversi tra di loro. Mario è estremamente determinato e ha una passione incredibile per quello che fa. Sente profondamente che è quello il suo destino e non solo il suo. La discendenza lo segue con un successo che attraverso la nipote Miuccia valica i confini milanesi per trasformare il nome Prada in un marchio riconosciuto in tutto il mondo, vanto dell'italianità all'estero, come sottolinea Giusy Ferré, giornalista e guru della moda. È una gran donna, Miuccia Prada, capace di fare veramente del suo lavoro ogni volta un esperimento e una grandissima lezione di stile. È uno dei nomi più importanti della moda italiana, perché tutti conoscono Prada, anche per via delle sue relazioni con l'arte. È una donna particolare, è un marchio particolare e mi piace sottolineare che è veramente un marchio profondamente milanese, che fin da prima della Prima Guerra Mondiale aveva il negozio in Galleria Vittorio Emanuele. È la dimostrazione che si può essere molto molto locali e nello stesso tempo assolutamente globali e internazionali. Ma se Mario è così determinato e sicuro di quello che vuole fare nella vita, lo stesso non si può dire di Martino. Pur lavorando nell'impresa di famiglia, egli si dimostra interessato soprattutto ai più deboli e ai diseredati. Antifascista e in contatto con Don Luigi Sturzo, si occupa di impegno sociale. Sorretto da una fede mai bigotta, è attivo nello scautismo cattolico, alla San Vincenzo, alla Caritas Ambrosiana e presidente dell'Opera Cardinal Ferrari. L'esempio del padre influenza enormemente il giovane Rolando. Non sa ancora se lo stare in negozio in galleria sia ciò che vuole. Anche se comprende perfettamente il valore di quello che fanno lo zio e la sua famiglia, nutre ancora dei dubbi. Quando firma il modulo di iscrizione alla statale, alla facoltà di medicina e chirurgia, sente che forse ha fatto la scelta della sua vita. Si laurea nel 35 e si specializza in otorino-laringoiatria, ma fa appena in tempo a prendere servizio al Fatebene Fratelli quando scoppia la guerra. Gli ufficiali medici servono, sono preziosi, lui lo sa. Non si tirerebbe mai indietro, lui è un alpino. E non lo fa nemmeno quando gli dicono che farà parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia, il fronte più terribile, il più duro, il più massacrante. Ecco come ricorda la partenza il tenente Nuto Revelli. Andavo migliaia di chilometri da casa mia ad ammazzare o a farmi ammazzare senza capire bene il perché. Come la tradotta si è mossa mi è arrivato come un canto sommesso, lamentoso, dai vagoni degli alpini. Erano gli soldati, i miei soldati, che cantavano una canzone proibita, Bandiera Nera, una canzone la cui prima strofa recita: Bandiera Nera e lutto degli alpini che vanno alla guerra, la migliore gioventù va sottoterra. È terribile quello che vede Rolando. Come ufficiale medico non solo deve curare le ferite del corpo, ma anche quelle dell'anima. I mesi passano, la disfatta dell'Armir è un dato di fatto e quella ritirata a 40 gradi sotto zero il più terribile degli eventi che un essere umano possa affrontare. Girando lo sguardo attorno, Rolando Prada non vede che una bianca desolazione costellata di corpi neri che arrancano, malvestiti, stanchi, affamati. Non ha nulla con cui curarli, non ha più una benda, un medicinale, nemmeno più quasi la forza. E forse qualche dubbio lo assale. È questo quello che vuole fare nella sua vita. A stento riesce a trascinare se stesso e un carretto stracolmo di feriti che cerca con ogni mezzo di salvare, almeno loro, almeno quelli. Ed è lì, in quella desolazione dell'anima, in quell'agghiacciante impietrimento di cuore e cervello che nota un bavero di pelliccia scura contro il biancore abbagliante della neve. C'è qualcuno lì, un essere umano che ha rinunciato, che non ce la fa più, che sta per abbandonarsi alla morte bianca, all'assideramento. Lo riconosce. Lo ha già visto qualche volta da lontano. Gli hanno detto che è il cappellano degli alpini, Don Carlo Gnocchi. Lui non può lasciarlo lì a morire. Destini incrociati. Chiamai tutte le mie forze a raccolta nel ricordo delle persone e delle mie cose più care, ma invano. Fu allora che mi accasciai lentamente nella neve e mi addormentai. Sentivo l'anima dilatarsi smisuratamente sul ritmo di una nenia triste e lontana. La morte bianca mi entrava pallida e inesorabile nell'anima. Don Carlo Gnocchi, sacerdote lombardo e cappellano militare al seguito della Brigata Alpina Tridentina sul terribile fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale, stremato da una lunga e inesorabile marcia nella neve a 40 gradi sotto zero, si accascia sul bordo della strada che le truppe in ritirata trasformano in un lugubre serpente umano lungo chilometri e chilometri. Non ce la fa più. Sono settimane che marcia a fianco dei suoi ragazzi, i suoi allievi dell'Istituto Gonzaga e dell'Università Cattolica di Milano, dei quali è direttore spirituale. Non ha voluto lasciarli in quelle terre inospitali senza il conforto della parola del Signore. Li ha seguiti volontario, ma ora le forze lo abbandonano definitivamente e si ferma, come tanti, un punto scuro in mezzo alla neve. Su quella stessa via arrancano uomini che ormai non hanno più speranza, vanno avanti solo per forza d'inerzia, ubriachi di quella luce bianca che gli ferisce gli occhi e gli gela il cuore. Su quella stessa strada passa il giovane ufficiale medico Rolando Prada, che si trascina dietro un carretto stracolmo di feriti. Vidi un bavero di pelliccia scura che si stagliava nel bianco della neve. Mi avvicinai e riconobbi il cappellano degli alpini. Lo avevo già visto un paio di volte di sfuggita, dare l'estrema unzione a qualche morente, raccogliere l'ultimo saluto di un ferito, elargire senza risparmiarsi tutta la solidarietà umana che poteva. Gli dissi: «Don Carlo, ma sei tu? Vieni, ti porto via». Ma Don Carlo non vuole. Gli dice che ci sono altri da portar via, altri che non ce la fanno, che prenda loro. Rolando Prada è debole, come tutti, ha freddo e fame, non mangia da non si ricorda più quanto. Ma con uno sforzo estremo prende in braccio quel corpo quasi assiderato. Il sacerdote pesa poco, ma lui pare di piombo, eppure insiste fin quando riesce a caricarlo sul carretto, in mezzo agli altri feriti. Don Gnocchi è ritornato dov'era, in quel mondo bianco che precede l'assideramento, eppure in quel breve attimo di coscienza ha prodotto un miracolo. Rolando Prada trascina come un automa quel carretto carico di vite che dipendono solo da lui, dalla sua volontà di farcela, e sta pensando. Pensa al cappellano, a quel Don Carlo che avrebbe volentieri barattato la sua salvezza con quella di un qualsiasi altro derelitto abbandonato in quella distesa gelida. Quel gesto estremo di amore per il prossimo si deposita nel suo animo e vi scolpisce a lettere di granito il suo destino futuro. Continuerà a fare il medico, sarà al servizio di quelli che soffrono e lo farà per tutta la vita, se riuscirà a salvarsi da quell'inferno bianco. Lui ce la fa, ma dell'Armir non tornano in 40.000, un numero impressionante, come ricorda un altro sopravvissuto, il tenente Luigi Pierani. Mi commuove molto pensarci, perché quando uscimmo dal campo, uno di noi era un capitano degli Alpini, un certo Giovanni, che era il più vecchio di noi. Stavamo già incamminandoci, il tenente russo che ci accompagnava ci disse: avanti, Zavaglio, avanti, camminate. E lui disse invece: fermi ragazzi, disse proprio ragazzi, perché eravamo dei ragazzi allora. Disse: fermi ragazzi, dice, fermiamoci un momento, perché e qui noi forse non torneremo mai più nella nostra vita. E noi qui ci lasciamo centinaia di ragazzi che erano come noi e che noi non vedremo più. E poi, dimenticandosi che eravamo vestiti come pagliacci, ebbe come in un soprassalto d'orgoglio, disse: signori ufficiali, vi ordino l'attenti. E il tenente russo ci guardava con un'aria sospetta, e poi invece capì che cosa stava succedendo. Era una forma di onore che rendevamo a quelli che restavano lì per sempre. Don Carlo Gnocchi si risveglia in un ospedale da campo. La vita che gli è stata risparmiata gli appare come un patrimonio inestimabile, da spendere fino in fondo. Lui che è tornato deve farsi portavoce di quelli che sono rimasti là. È deciso, raccoglie quante più testimonianze riesce e rientra in Italia con lo zaino gonfio di lettere, cartoline, biglietti, ricordi della tragedia. Ricerca mogli, figli, mamme, fidanzate. La guerra non lascia solo caduti sui campi di battaglia, ma vedove, orfani, mutilati. È a loro che Don Carlo Gnocchi intende rivolgere d'ora in poi la propria attenzione. A loro decide di dedicare la vita, così come ha deciso il suo salvatore, il medico dei soldati Rolando Prada, che rientra al Fatebene Fratelli. Rientrato in Italia dal fronte russo, Don Carlo Gnocchi inizia il pietoso pellegrinaggio attraverso le vallate alpine alla ricerca dei familiari dei caduti e, rischiando in prima persona, aiuta molti partigiani ed ebrei a fuggire in Svizzera. La notte del 17 ottobre 1944 viene svegliato da un gran trambusto. Le SS sono alla sua porta, lo trascinano via e lo incarcerano a San Vittore, dove viene accusato di attività sovversiva. Lo salva il cardinale di Milano Ildefonso Schuster, che ancora una volta interviene nella sua vita facendolo liberare. Don Carlo assume allora la direzione dell'Istituto Grandi Invalidi di Arosio, dove accoglie i primi orfani di guerra. Una mattina accade un fatto che determina le sue scelte future, come racconta Monsignore Ernesto Pisoni. Era da qualche mese incerto se occuparsi degli orfani, se occuparsi di altre forme di bisogno dell'infanzia. E poi un giorno nel suo studio venne una madre con un bambino che qualche mese prima era stato dilaniato dallo scoppio di una bomba. Era senza una gamba, senza un braccio. E questa povera mamma disperata glielo mise come sulla scrivania. E mi diceva: Don Carlo, vedendo quel bambino lì davanti a me sul mio tavolo, che non poteva praticamente muoversi se nessuno lo sollevava tra le braccia, fui come illuminato, ebbi la certezza, io devo occuparmi di questi bambini. Fonda l'associazione Pro Juventute, una vasta rete di collegi in moltissime città d'Italia. Ma è un altro nemico, forse peggiore del freddo della Russia, che decide di dichiarare guerra. La poliomielite, piaga sociale alla quale si rivolge una volta esaurita l'emergenza dei mutilatini. Nei suoi centri i piccoli malati trovano non solo cure, ma anche e soprattutto la possibilità di inserirsi a pieno nella vita, nella società. Imparano a diventare per quanto possibile autosufficienti. Vengono dati loro gli strumenti per esprimersi, imparare un lavoro, diventare a tutti gli effetti degli esseri umani. Ecco una rarissima registrazione della voce di Don Carlo Gnocchi che spiega come intende strutturare le sue case di riabilitazione. Vorremmo fare una casa tipica per questi ragazzi, cioè una casa pensata al servizio dei bambini non sufficienti, non autosufficienti, dove tutto, dalla sedia al banco, al letto, al servizio, al campo da gioco, ai pavimenti, alle pareti, alle porte che devono essere larghe per consentire il passaggio dei carrozzini, eccetera, eccetera, sia pensata in funzione di una comunità non deambulante con propri mezzi non autosufficienti. È la voce di un uomo determinato, fermo nelle sue convinzioni, un uomo che non si tira mai indietro di fronte alle difficoltà. Quello che non ha potuto il fronte fangoso dell'Albania e quello gelido della Russia riesce a un male incurabile che lo condanna a una morte prematura. Ma Don Carlo ha un estremo atto d'amore nei confronti dei suoi ragazzi. Decide di donare le sue cornee. Siamo nel 1956 e la legge italiana ancora non prevede una regolamentazione delle donazioni che sono illegali. Don Carlo non ha dubbi. I suoi occhi hanno visto tanti orrori, ma ora andranno a due giovani ciechi che potranno così tornare a vedere. E questa è l'ennesima provocazione a una società spesso lenta e poco attenta ai bisogni dei più indifesi. Una provocazione che dà i suoi frutti, grazie a Don Gnocchi. Il Parlamento italiano vara le prime leggi sulla regolamentazione dei trapianti d'organo, mentre Papa Pio XII avalla il suo generoso gesto, chiarendo in maniera inconfutabile la posizione della Chiesa nei confronti della donazione degli organi. Il Vangelo di San Luca contiene una vivida descrizione del cieco di Gerico, che udendo passare tanta gente chiese cosa significasse tutto ciò. Gli risposero che passava di là Gesù Nazareno e allora esclamò: «Gesù, figlio di David, abbi compassione di me. Cosa vuoi che io faccia, Signore, che io veda? Va, la tua fede ti ha salvato». E immediatamente recuperò la vista. Questo grido, «Signore, fa che io veda», risuonò nelle orecchie e nel cuore di tutti. Anche voi volete rispondergli e dare il vostro aiuto per quanto è in vostro potere. Voi ci assicurate che il trapianto di cornea costituisce per molti malati un mezzo promettente di cura o, almeno, di sollievo e miglioramento. Dunque, utilizzatelo e aiutateli. A 30 anni dalla morte di Don Carlo, nel 1986, l'allora arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, avvia il processo di beatificazione che viene confermata e celebrata dall'arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi il 25 ottobre del 2009. Tra le migliaia di persone riunite per festeggiare Don Carlo Gnocchi è presente anche un vecchio, un ex alpino molto anziano, ha ben 98 anni. La sua emozione ha un sapore diverso da quella di tutti gli altri presenti alla cerimonia. È lui, Rolando Prada, l'ufficiale medico che con uno sforzo estremo è riuscito a salvare quel cappellano ormai destinato alla morte bianca per restituirlo alla vita e a tutti i suoi ragazzi. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.